Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, buonasera a tutti, benvenuti nelle nostre frequenze. Questa è Blu Radio Veneto, questa è Blu Radio Sera, la programmazione serale appunto di Blu Radio Veneto. Una buona serata a tutti da parte di Flavio Bilato e di Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, in questa serata ospitiamo ospiti, diciamo così, internazionali, anche se i chilometri che ci dividono sono pochissimi, però abbiamo l'onore e il piacere, non pochissimi, non, non, fanno, mica tanto, fanno, ma tra poco scopriremo il perché, dipende poi dai momenti in cui si fa la traversata. E quindi parliamo di Croazia, che è vicino a noi, se la vediamo dalla parte dell'Adriatico, poi per fare per circumnavigarla ci vuole qualche chilometro in più. E quindi parliamo di Croazia, parliamo di Parenzo e di Umago, e quindi diamo il benvenuto ai DM Carpe, eccoli qua. Dobro dosli, ragazzi. Hvala. Ciao. Dobro večer. Ecco qua, dobro večer. Le mie parole in croato si fermano qua, non pensiate di anche poter, le nostre di poter continuare la trasmissione nella vostra lingua. Sappiamo benissimo che da quelle parti si conosce molto bene l'italiano, anzi lo si parla pure, voglio dire, in alcune famiglie. Quindi allora abbiamo detto Diem Carpe, e non è un errore da parte nostra il pronunciare in questa maniera il nome del vostro gruppo, ma si parte da lontano, no? Si parte da lontano, dicendo che prima il vostro nome era Carpe Diem. Sì, è logico. Sì, certo, quindi cogli l'attimo, e adesso c'è stato un po' di, come dire, di risistemazione della band, e quindi necessità di cambiare il nome, e quindi DM Carpe. Allora diamo il benvenuto a Oscar, poi ancora Diana. Ciao, buonasera. Davor. Ciao. Daniel. Ciao, abbiamo ciao. Sentito già la voce di Daniel. E Patrick alla voce. Manca qualcuno? Io. Eccola. Ciao. Benissimo. Allora, i DM Carpe sono arrivati appunto da Parenzo per proporci la loro musica. Ascolteremo molti brani live, perché ha detto appunto Patrick, anzi Daniel fuori dalla diretta, diceva: senti, abbiamo fatto tanta strada, ascoltare il disco non vale la pena, quindi ascoltiamo tanti live. E quindi in questa serata vediamo di sentire tutte le sonorità musicali di questo gruppo davvero particolare, che non riesce ad andare a pari passo con qualche etichetta della serie, non so, hard rock, musica classica, folk. No, niente, ogni canzone, ogni musica, ogni nota che esce ha sempre un qualcosa di diverso. E quindi in questa serata all'interno di Blu Radio Sera vedremo di capire qualcosa di più di questi DM Carpe. Li hanno giudicato art rock nel senso più ampio del termine, così per dare un giudizio più che almeno per dare un punto di riferimento, ma solo un punto di riferimento. Sì, sì, sì. Poi la musica varia, si allarga, si restringe a seconda dei momenti, non è così? Certo, guarda, siamo qui con una fisarmonica, allora e quello è già positivo. Quanto rock ci sarà? Esattamente. Oggi. Con la fisarmonica si può fare anche rock, sì, sì. Abbastanza rock, non dico duro, però si può fare del rock, certamente. La fisarmonica è uno strumento adatto anche per fare del rock, anche se non sembra a priori. Fisarmonica vuol dire anche folk o no? Una ricerca di certe tematiche, può essere anche una ricerca sì, di cerchiamo sempre di avere, diciamo così, un sottofondo un po' orientale, un po' orientaleggiante. Ma giusto un assaggino. Un assaggino, e per poi sviluppare quante tematiche, che tematiche, dove andate a parare musicalmente parlato? Un po' di tutto. Andiamo a parare proprio dappertutto, dove cosa ci passa per la testa, insomma, lo facciamo. Qua siamo in cinque individui, ognuno arrivato dalle proprie radici musicali, diciamo così, e invece di fare a botte e di dire no, facciamo questo, facciamo quello, ci siamo detti facciamo tutto e via. Esatto, avete fatto a botte musicalmente parlando, nel senso sì, positivo questo del lo termine. Facciamo ogni giorno. Ecco, tra le altre cose, il prodotto che ci avevano presentato di DM Carpe per farsi conoscere dalla radio e quindi a tutti i nostri ascoltatori era una, diciamo, una piccola compilation di opere prime, si può dire, dove si parte dall'hard rock per andare verso un'atmosfera un po' più Pink Floydiana, come si diceva prima. per passare alla classica nonché alla lirica, perché ricordiamo che Diana è anche è un soprano, no? Quindi sì, poi certo, impareremo a gustare anche la sua voce. E poi c'è quel brano che corrispondeva quasi a una bonus track, no? Chiamata così, quel Raphael, che poi più tardi ascolteremo, che aveva proprio delle venature jazzate, sì, si può dire. Sì. Quindi vabbè, allora nel corso della serata impareremo la musica, però so che ci riserverete delle altre sorprese, perché anche noi, come i nostri ascoltatori, non sappiamo cosa bolle in pentola stasera. Voi lo sapete meglio di me. Le prove, c'era anche su Facebook la vostra foto per la preparazione di questa serata. Sì, così sembra che ci siamo preparati. Sì, è vero, invece vi siete trovati là intorno e ho detto, adesso cosa facciamo? Facciamo una foto. Facciamo una foto, giustissimo. Allora, e tra altre cose vi siete portati anche la fotografa. Sì, anche manager, fotografa manager. La nostra Andrea. Ecco qua, quindi salutiamo anche Andrea. Buonasera Andrea. Allora, visto che abbiamo parlato di musica, da dove cominciamo, Daniel? Cominciamo a suonare. Cominciamo a suonare. Allora, c'è questo, il primo pezzo, che è l'intro a cui viene abbinata un'altra canzone. Allora, vogliamo subito entrare nella diretta live e poi commentare questo brano come è nato? Vai. Benissimo, andiamo allora con i DM Carpe qui a Blu Radio Sera, un gruppo che arriva direttamente dalla Croazia, da quel di Porrece o Parenzo, come lo conosciamo noi italiani. E ascoltiamoli con questa canzone che comincia con questo intro e poi c'è un Dark Gid Night Live. Thank you. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua in diretta dagli studi di Blu Radio Veneto. Siamo insieme ai DM Carpe, un gruppo che ci è venuto a trovare dalla Croazia, in particolare da Parenzo, dove solitamente noi usiamo andare in vacanza nei periodi estivi. Ebbene, in questo inverno ho detto: cosa facciamo a Parenzo? Veniamo a Padova, vediamo a suonare a Blu Radio Veneto e facciamoci conoscere ancora di più di quello che già siamo conosciuti in quel di Parenzo, ma anche in tutta la Croazia. Non è vero, Dien Carpe? Sì. Con un tono di sufficienza si dice. No, beh, voglio dire, siete abbastanza conosciuti, nel senso che siete andati anche a suonare in diversi punti, sia radiofonici che televisivi da quelle parti. Sì. Siamo stati ospiti in più radio, abbiamo anche suonato dal vivo in alcune radio, siamo stati ospiti presso la TV locale che ha anche trasmesso un paio di nostri concerti, stiamo per andare adesso a dicembre a fare un'ospitata presso la TV nazionale croata. Che Dio ce la mandi buona. Sì, assolutamente. Beh, in ogni caso questo pezzo che avete eseguito qua era molto interessante. Tu parlavi che non era il discorso del folk con la fisarmonica. L'introduzione della fisarmonica in questo pezzo ha un po' acquietato, un po' addolcito un pezzo che poteva essere più potente, più rock. Cosa sì, dici? Sì, abbiamo deciso di incominciare, diciamo, un po' così leggermente. Leggermente, esattamente. Per poi andare a far casino. Ecco, esatto. Chiedo scusa, ma prima in partenza avevo un po' storpiato il nome del brano. Vale la pena che Daniel lo ripeta come si deve dire. Ecco. Allora, per tutti gli studenti British, yes. It's Dark Guiding Light. Eccola, benissimo. Quindi con dark il te vicino. Guiding Light. Alle 5. Benissimo, invece se vogliamo tradurlo in croato, come si potrebbe dire? In croato, tamno svietlo vodilja. Eccolo là. Bene, quindi... Hai capito? No. È di italiano. Vabbè, quindi Dark Guiding Light, dove la potremo trovare ancora, oltre che all'interno del podcast che registriamo in questa serata e poi inseriremo nei nostri archivi sonori per renderlo pubblico? La potrete trovare in futuro nel nostro album d'esordio. Benissimo, quindi non appena c'è l'album d'esordio, mi raccomando. Tutti ad ascoltare questa canzone. Ecco, perfetto, no, perché veramente è venuta davvero bene. Grazie. Allora, DM Carpe, visto che ci sono gli strumenti musicali sempre a disposizione, perché ricordiamo i ragazzi sono arrivati da Parenzo muniti di chitarre, quella che avete sentito prima non era una registrazione, ma sono loro in carne ed ossa, anzi farei sentire anche gli strumenti come sono. Proprio un'improvvisata. Allora, Davor el Cajun. Ecco qua. Oscar alla chitarra. Splendido. Sì. Patrick voce e chitarra. Diana soprano. No! Fantastico. E la fisarmonica che è... Daniel. ottimo, benissimo. E poi faremo ascoltare anche uno scatto di macchinetta fotografica di Andrea che è venuta per l'occasione. Vabbè. Allora, tocca un secondo pezzo, in questo caso si è scelto Welcome to Babylon. Yes. Come mai il titolo così Benvenuti a Babilonia? Perché come sappiamo bene Babilonia è una città dove si parlavano insomma tutte le lingue esistenti, quindi nessuno non capiva un niente, diciamo così, perché c'era la luce rossa. Appunto. È meglio che sia così, ok? Sì. La luce rossa era intesa nei microfoni accesi o spenti. Sì, perché... è una canzone sì. È una canzone che tratta insomma l'alienazione che ogni individuo subisce nella società moderna. E noi insomma gli diamo a questo individuo diamo il benvenuto in questa società moderna che nessuno capisce nessuno insomma. Bene, allora Welcome to Babylon, loro sono i Dien Carpe che sono venuti a trovarci da Parenzo e sono qui a Blu Radio Veneto in diretta. Bene. Thank you. gates. Joy is sweet, feeling of being lost. I know exactly what you should do. You have to hold my hand, you have to hold, you have to hold. Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Welcome to Babylon è il titolo di questa melodia, di questa canzone. Con noi ci sono i Dien Karpe che hanno eseguito assolutamente dal vivo questo pezzo che anch'io e Maurizio ascoltiamo per la prima volta, ma i Dien Karpe hanno voluto farci ancora una sorpresa oltre a inviarci un disco che poi non ascolteremo, abbiamo capito. Cosa... ci stanno allietando la serata con dei pezzi live. Davvero live, soprattutto per noi, voglio dire, inediti, inediti, assolutamente. Dobbiamo sottolineare una cosa a proposito di questo pezzo, il cambio di ritmo nel proprio nel pezzo, nell'interno del pezzo. Adesso Dani me lo spieghi il motivo di questo cambio di ritmo e come se è nato proprio così o l'avete fatto volutamente dal vivo così per noi stasera. Che come dire, l'abbiamo costruito. L'abbiamo costruito volontariamente anche per voi. Anche per noi. L'avete leggermente modificato secondo l'andamento iniziale. Sì, com'era inizialmente il pezzo? Ci erano questi cambiamenti di ritmo voluti? Il pezzo ha i cambiamenti di tempo voluti, solo che questa sera siamo qua a suonarla ed ascoltarla in una versione inedita anche per noi. Ah, insomma, perfetto. L'avete proprio costruita. Arrangiata, sì, per voi. E l'inserimento del soprano, cioè di Diana praticamente, è fondamentale anche nel cambio di ritmo. Sì. Sì, perché lei quando canta lei c'è un tipo di atmosfera, quando arriva Patrick con una voce più aggressiva c'è un altro tipo di atmosfera, poi si va sulle due voci contemporaneamente, alla fine anche tre. Flavio, secondo me ci hanno un po' aggiunto un filone di jazz rock qua dentro. Assolutamente. In un momento, non jazz, so se siete d'accordo. Il jazz che abbiamo nominato prima assolutamente c'è, ma non c'è solamente il jazz. Mi sembra di trovare anche un'anima leggermente folk in questo pezzo. Anche se magari nella versione acustica è così, poi magari nella versione elettrica cambia e quindi, non so, con l'ausilio delle tastiere invece della fisarmonica. Non sì, so sì, com'è. Ma te l'ho detto, c'è sempre questo filo sì, di folk sì, orientaleggiante e dentro le nostre canzoni. C'è sempre, quindi e si mantiene bene, voglio dire. Benissimo, allora abbiamo ascoltato Welcome to Babylon, e quindi abbiamo sentito anche le varie voci proprio ad identificare questa popolazione che mal si comprendeva, e poi però forse verso la fine qualcuno è anche riuscito a comprendere il perché di tutto ciò. E allora, DM Carpe, vogliamo capire un attimino di più della vostra musica partendo da quelle che sono le vostre origini, quindi cinque elementi che si trovano ma che vengono da quali esperienze musicali? Abbiamo... Siete giovani, però voglio dire, ce n'è. Grazie. E qua abbiamo un po' di tutto, abbiamo chi arriva proprio da scuole di musica classiche. Qualcuno no, si dice. Qualcuno sì, uno no. Per fortuna no. In radio non si possono vedere gli sguardi. Sì, questo no. È vero, però ci sono sempre macchine fotografiche, stai sì, attento. Sì, ma non Facebook. Non ci dobbiamo, non ti preoccupare perché non diciamo che sei tu, Patrick. Ecco qua. No, però ecco, a Diana. Diana che è la cantante, la soprano del gruppo. Sì. Un soprano che si vedrebbe molto bene, oppure i più lo vedono molto bene, collocato all'interno della musica classica, della musica diciamo lirica. Come riesce a sposarsi una voce soprano all'interno di una sonorità un po' più rock? Beh, io cerco di adeguarmi un po' addolcendo, così per dire, la voce. Non è proprio quella lirica con quell'impostazione del diaframma, così si dice. Non c'è la Tebaldi? Ecco, no, no. Sarebbe forse un po' troppo spiccante come voce dentro questo suono così rock, così duro. Un po'. Sì, un po' abbastanza. Perché suono duro, praticamente. La dolcissi, cioè entri nel discorso e cerchi di mitigare la profondità rock di giusto, tuoi compagni giusto, praticamente sì, mi ricordo sì, tra altre cose punto. C'erano i Renaissance, cioè, è vero, bellissimo, hai citato un gruppo straordinario, un gruppo che 40 anni fa faceva numeri anche al Carnegie Hall, ha registrato esattamente un album meraviglioso, cioè sì. Kate Raff, il famoso Kate Raff, quindi un musicista straordinario, aveva una voce femminile all'interno, e che voce femminile, sì. Ve la ricordate il Renaissance? Dani, te lo ricordi? Ecco, vedi che se la ricorda Dani, quindi insomma. Ok, volevo dire un'altra cosa, il discorso del pezzo che abbiamo fatto sentire prima dal vivo, a me ricordava una cosa che avevano fatto Roger Plant, Jim Page e Roger Plant, solista, una loro costruzione un po' orientaleggiante. A me ricordava quello. Grazie. A me ricordava il momento orientale dei non esistevano più i Led Zeppelin all'epoca, cioè loro solo due, sì, avevano fatto quel progetto un po' orientaleggiante. Era il progetto Unplugged. No Quarter. Ecco, vedi se lo ricordo. E un'altra cosa, possiamo ritornare a Brian Jones quando vuoi. No, possiamo parlare di Brian Jones, che anche lui aveva fatto un progetto orientaleggiante in Marocco, ve lo ricordate? Sì, sì. Non ci resta altro da fare che partire per il Marocco dopo, sì, ma, dopo Padova. Molta gente con del discorso di Brian Jones, molta gente poi è andata a incidere nel Marocco grazie a questo disco fantomatico di Brian Jones pubblicato dopo la sua morte, chiaramente. E adesso l'hai detto, adesso è tardi. Adesso abbiamo già deciso dove si va a registrare. Certamente. Benissimo. Allora adesso prendiamo un po' di fiato perché ascoltiamo per la prima volta anche noi, Maurizio, un altro brano. Un brano questa volta da CD per far prendere un po' di fiato ai ragazzi. E ci ascoltiamo un pezzo che deriva da un musical, e quindi ci ascoltiamo la traccia che si intitola Viva la giostra, e poi torniamo a commentarla, d'accordo? Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Un, due, tre, tappare il sosè. Quattro, cinque, sei, siamo i più bei. Nel filon, sotto il gonfalon, con noi qua, la giostra avanti va. Un, due, tre, la giostra bella sè. 4, 5, 6, noi siamo più potei. Noi siamo qua, onor della città. Col cuor dai, non fermarsi mai. Viva la giostra, la sè bella, la sè nostra. Viva San Mauro, è il nostro protettor. Gli empatri, zapporesmo svi. C'è tripet šest, giostre mismo čest. Naš je snijeg, svi smo ispod njeg. Složno sad, časti ćemo grad. Jem, dva, tri, najbolji smo mi. Četiri, pet, šest, stisnimo sad pest. Svi u stroj, nije važan broj. Srcem sad, proslavimo grad. Živjela džostra, naša krasna. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Questa è Blu Radio Sera, programmazione serale di Blu Radio Veneto. Ancora buona serata a tutti da parte di Flavio Bilato assieme a Maurizio Calzavara. In questa serata ospitiamo un gruppo che arriva da Parenzo, Croazia, DM Carpe. Ancora buona serata ragazzi. E, ciao. Ciao. Eccoli qua, siamo solo in 5, 5 più 1 diciamo, anzi una, che sentiamo sempre in lontananza la sua voce ogni tanto, sentiamola ancora? Eccola qua, dobrovece. Allora, abbiamo ascoltato un pezzo che, come si diceva in partenza, deriva da un musical. Allora, questo pezzo si intitola Viva la giostra, era molto divertente. E a qualcuno dei nostri ascoltatori all'inizio sembrava di capire il testo, poi verso la fine. Poi arrivò in agguato il croato. Arrivò in agguato la vostra lingua a testimonianza che la stessa melodia si può cantare e ci sta benissimo all'interno, due lingue ospitate all'interno della stessa canzone. In questo caso non stiamo parlando di Babilonia, stiamo parlando di una realtà locale dove si parlano le lingue. Diciamo la lingua madre, il croato, ma si parla anche molto, diciamo, l'italiano, ovvero il dialetto, se vogliamo, triestino sì, da quelle sì, parti. Sì, molto in Istria, sì. E quindi, sì, certo, tra Parenzo, Umago e tutte le altre cittadine, soprattutto che guardano, diciamo, verso l'Adriatico, c'è ancora questo dialetto e in certe fasi, parlando anche in dialetto veneto con voi, mi sentivo quasi a casa, no? Quindi benissimo. Okay. Allora, DM Carpe, anche questa, Viva la giostra, parliamo un po' di questo musical. Allora, un giorno suona il telefono. Noi rispondiamo ovviamente, certo, e ci dicono: salve, qua il museo di Parenzo che vi parla. Vorreste bene. Fare un musical? Noi ci siamo guardati, abbiamo detto perché no. Ed ecco, basta che non sia da fare le statue al museo, sì. Tutto il resto va bene, sì. Insomma, abbiamo fatto un musical, come già detto, commissionato dal museo della città di Parenzo, sì. Per un festival storico, che si tiene ogni anno a settembre a Parenzo, dove ci sono giochi, tornei e tutte, insomma, c'è la vita a Parenzo nell'anno 1745. Parenzo va indietro di qualche anno, diciamo, di pochi anni, come sono pochi chilometri da Parenzo fino a qua, come hai detto prima. Quanti sono? Vogliamo dirlo quanti sono? Tanti! Tantissimi. Con circa 3 ore di macchina, sì, no? Sì, quando sì, non c'è la coda in frontiera. Ma sì, quando non c'è la coda, quando il GPS funziona. Sì, certo. E tante altre cose. Non era il nostro caso. Oggi è così. Insomma, ci hanno proposto di fare questa cosa, noi l'abbiamo accettata volentieri. Ed è venuto fuori un progetto a parte, nel senso che abbiamo fatto della musica che di solito non facciamo, non abbiamo fatto e credo probabilmente non faremo. È stata una cosa così passeggera, l'abbiamo fatto, siamo felici. Ma è stato difficile mettersi nell'idea di fare un musical, voi che chiaramente siete un po' lontani da questo genere musicale? No, avete avuto delle difficoltà? No, lì avete accettato subito, ma poi pensando, le difficoltà sono arrivate oppure? Ma neanche non tanto, meno di quanto si possa immaginare, diciamo, per fortuna. Per fortuna. Ma voi siete, oltre musicisti, siete anche, come dire, gli attori di questo musical oppure c'è... No, noi siamo stati la band che ha suonato, ci siamo messi da parte questa volta e ci sono stati più di 100 cittadini di Parenzo che hanno, tra balli e fuochi e robe varie e attori che hanno fatto tutti, come si dice? Hanno fatto parte, hanno partecipato, vabbè, praticamente hanno fatto le comparse, insomma. Sì. Esattamente. Mentre... Quindi non c'erano attori principali, c'era la vostra... No, c'erano. C'erano attori. Sì. Sì, volevo dire che non c'erano attori professionisti. Ah, okay. Sono tutti cittadini di Parenzo, gente... Normale o meno. Vabbè, basta guardare. Vabbè, poi si potrebbe aprire una parentesi lunghissima su questa argomentazione. Sì. Insomma, ci siamo divertiti tanto, c'è stato un richiamo del pubblico enorme per una città come Parenzo, perché c'è stato un pubblico di circa 1600 persone, ovazioni, tutta una cosa che non ci aspettavamo, diciamo così. La band era elettrica o acustica? Elettrica, sì, chiaramente. E c'è anche un CD che sopravvive di questa vostra rappresentazione? Stiamo proprio per entrare in studio a registrarlo, quindi se volete ve lo facciamo avere. Ah, certamente. E magari anche allegata a qualche traccia video, diciamo. Sì, ecco, sì, sempre, faremo sempre un CD più un DVD o un... Così lo mettete su radio anche il video, no? Certo, si vede come se si vede. Benissimo, allora DM Carpe qui con noi a Blu Radio Veneto. Prima abbiamo ascoltato un pezzo da disco, tanto per farvi ritornare un po' il fiato. Adesso però ancora live, quindi un goccino d'acqua, un goccino d'acqua a ciascuno dei partecipanti, vero Maurizio? Certamente, l'acqua è una cosa... fondamentale per una band. Abbiamo la nostra sorgente propria. Se diciamo per gli spettatori che il nome in codice è acqua, per quello che c'è. Ecco, sì, assolutamente acqua. Non c'è nessun altro risvolto, è acqua, pura acqua. Ok. Benissimo, allora un altro pezzo che rappresenta ancora una sorpresa per noi, stiamo parlando di In the Wind. Sì, certo. Bene, allora l'ascoltiamo dagli studi di Blu Radio Veneto. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo piacevolmente conversando, oltre che ascoltare la musica dei DM Carpe. Sings a melancholy command. good to know one. Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E questo è il classico pezzo che mette sempre in serio repentaglio il lavoro del regista, perché sembra che ci si fermi in ogni qualsiasi momento, in realtà ci sono almeno tre riprese in questo pezzo. In the Wind, con noi sono i Carpe Diem, Diem Carpe, attenzione a non sbagliare, mi raccomando. Quindi salutiamo ancora una volta Oscar alle chitarre, Diana il soprano, Davor percussioni, ancora Daniel alla fisarmonica e Patrick voce e ciao, chitarra. Salutiamo anche il nostro coordinatore di tutti i live, Alberto Prisco, che è appena arrivato, e quindi lo ringraziamo per questo. E secondo me l'inizio del pezzo era molto dark. Cosa mi dici, visto che l'hai cantato te? Come la maggior parte dei nostri pezzi. Esattamente, come la maggior parte dei vostri pezzi. Volevo saperlo da te, adesso l'hai detto praticamente. Un inizio dark, poi si è sviluppato in modo diverso, come ha detto giustamente Flavio, tre reprise continui. È molto interessante perché la vostra caratteristica è di fare e continuare a scordinare tutti gli elementi. Beh, è una cosa che facciamo di continuo, sì, un po' per rendere più interessante l'atmosfera. Beh, insomma, sì, parte con un... non so se si era capito, era un vento quello. Sì, era un vento, esatto, sì, all'inizio sì. Sì, era un vento. Per esatto. I bambini a casa quello era un vento. E poi lentamente le cose si sono sviluppate. Sì, sì, poi... Insomma, tra il ritornello molto... Beh, insomma, sì, praticamente la canzone... dall'inizio parla di questo vento che ci riporta indietro a rivivere le storie degli eroi del passato che praticamente viaggiano in questo vento attraverso il quale noi cantiamo e passiamo attraverso la canzone. Insomma, la canzone è un po' una simulazione, diciamo così, del personaggio che è arrivato su un campo, su un campo disteso, che è stato tempo addietro protagonista di una battaglia. E lui sente queste voci passate dei guerrieri caduti in battaglia, insomma. Quindi poi possiamo anche immaginarlo come un urlo di guerra all'inizio. Sì. E poi si sviluppa in un altro sistema. Dark sì lo è, perché chiaramente la guerra è sempre dark, secondo me. Più dark di così. Esattamente, quindi in ogni caso doveva essere così. Assolutamente, e il vento in questione non era la bora, che, con cui comunque c'è una certa familiarità. No. Assolutamente. No, cos'è? Benissimo, allora sono le 21:48 minuti in questo preciso istante, sempre a parlare con i DM Carpe per parlare di quelli che saranno i loro progetti futuri. Stiamo ascoltando sempre nuove musiche da proporre e questa volta tocca a un pezzo che è di una bellezza davvero unica. Non per dire delle altre canzoni che abbiamo ascoltato fino adesso, che veramente sono dei gioiellini, però questa, e vado a dire il titolo, è Tell Me, racchiude un qualcosa in più, un'amalgama direi perfetta del gruppo. Grazie. E quindi, anche perché poi magari parleremo approfonditamente anche di Tell Me, anzi lo facciamo adesso. Tell Me è anche il vostro primo video ufficiale, sì. Quello che avete registrato in quel di Trieste? L'audio l'abbiamo registrato a Trieste, poi l'abbiamo mandato giusto per fare la cosa in casa, diciamo così, l'abbiamo fatto masterizzare a New York. Sì, perfetto, è in casa, sì, assolutamente. Dietro l'angolo. Certo. Pochi chilometri, sì, tipo come... Parenzo-Padova. Tipo, sì, Parenzo-Padova, sì. Parenzo-Giostra. Sì. l'abbiamo girato in Istria. Però l'abbiamo, diciamo così, è stato un premio per la nostra partecipazione presso il Musical Contest a Firenze. Siamo andati fino a Firenze, quindi Padova è stata una bazzecola, È stata una tappa. Siamo andati a suonare a questo contest a Firenze e ci hanno subito proposto i membri della giuria di girare subito il video, che poi era anche il primo premio, però il contest era una cosa, più gironi, non so quanti, non so cosa. Però noi ce l'hanno proposto, per fortuna nostra, di farlo subito. Sono arrivati loro in Istria, l'abbiamo girato in più. Quanti pezzi avete fatto nel contest? Quattro pezzi, quelli che ci sono sull'EP che vi abbiamo mandato. Esattamente. Sì, nell'EP ci sono A New Revolution, poi c'è Tell Me, appunto la canzone in questione, Oblivion, e poi c'è la bonus track che è Raphael, che ascolteremo anche più tardi. Quindi con quattro sonorità completamente diverse, come si ricordava già in principio. Allora, perché non ascoltare subito questo pezzo Tell Me, che tra le altre cose è il pezzo preferito anche dal nostro direttore artistico Alberto Prisco, che per l'occasione si siederà tra voi per ascoltarselo in assoluto silenzio, da guai non disturbare il maestro. Per citare Fantozzi, venghi. venghi, certo. Ok, allora dagli studi di Blu Radio Veneto, DM Carpe con questa Tell Me. Thank you. is this place I came into suddenly. Where am I now? Can someone tell me? I don't know if this is reality or just fantasy. Is there a place in my mind I don't know about? Is there a thought I should get rid of? How to see through why the sky is so blue. Give me the colors with which I will paint every line. Bring me joy or stay away. All I want to do is was burning too fast. You never know what a dream is about. So one day he was gone. Somebody claims they've seen him in a cloud. Not every drop of rain is at sea. Round. This is my despair. Tell me what I should think, what I should do. Tell me how to see through why the sky is so blue. Give me the colors with which I will paint every light. Bring me joy or stay away. All I want to do is Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Non volava una mosca. questo pezzo si intitola Tell Me. A proporcelo sono i DM Carpe direttamente da Parenzo per farci ascoltare la loro musica. Allora, vorrei capire questo. Come nascono le vostre canzoni? A un certo punto uno telefona all'altro e dice senti, ho questa melodia da proporre, vediamo di farla in musica. Neanche così, siamo più sfacciati, diciamo così. Sì. Neanche propone, non ci chiama per dire ho una cosa da ma la propone direttamente. Direttamente, sì, certo. Alle prove, sì. Insomma, alcune canzoni sono nate da idee che avevamo da prima, insomma da casa, idee che ci siamo portati da casa. Alcune sono nate proprio durante le prove. Ah, direttamente? Sì, moltissime, sempre di più. Diciamo. Come nascono? Con un accordo di chitarra? Non so, nelle prove, parlo delle prove. Sì, qualcosa o con un accordo di chitarra o con un effetto speciale su chitarra. Certo. O... ecco. per me. Ecco. Può nascere da quello, chiaramente. Scusate, c'è 5 minuti che facciamo il pezzo. Si fa anche così. Beh, c'è Michele Gazzi, lo puoi citare, sì. Flavio? Sì, se vogliamo citare Michele Gazzi, c'è stato recentemente ospite nei nostri studi e ci ha rivelato che all'interno del suo nuovo CD c'è una canzone che ha proprio inciso mentre aspettava di andare in diretta. Ah, vedi. Quindi, e quindi tanto per dire che anche i nostri studi hanno questa proprietà di ispirare canzoni, sì, anche perché qua si respira solo musica, ragazzi. È un finale quasi solenne, quasi epico alla fine di questo, sì, pezzo, secondo me. Cosa, sì, dite? Un pochino l'abbiamo fatto. Ma bello, non è mica un pochino, è fatto bene. Cioè, un finale epico, solenne, una certa partecipazione, si vede una partecipazione totale da parte vostra. È un bel pezzo, un pezzo che tra l'altro noi abbiamo trasmesso un po' di volte, un mesetto circa, all'incirca. Bene, per aiutare i nostri ascoltatori, oltre questa trasmissione che poi potranno prendersi come podcast all'interno del nostro sito internet bluradioveneto.it oppure all'interno della nostra pagina Facebook che è Blu Radio Veneto Rock Wave, ecco, c'è un'altra maniera per entrare in possesso della vostra musica? Basta andare su www.dmcarpe.com. È un sito in costruzione, ora sta per uscire fuori qualcosa di, speriamo, interessante. E lì si possono trovare tutti i link a Facebook, SoundCloud, Reverb Nation, MySpace, YouTube e chi più ne ha più ne metta. E quindi conoscere anche qualcosa di più, sì, dei DM Carpe. Sì, sì. Bene, musicalmente quindi, ma io voglio capire un'altra cosa. Questo pezzo qua l'avete fatto molto bene, acustico per modo di dire, un acustico molto veloce, molto potente, molto roboante. Le vostre matrici musicali non le avete ancora svelate, io voglio capire le vostre matrici da dove partono. Flavio ha citato jazz, rock, ma non solo il jazz e rock, c'è qualcosa d'altro secondo me. Allora partiamo da sinistra a destra dei vostri... Ecco, non parliamo dal nostro percussionista, dai. Vai, percussionista. Parte perché... da me... che si può sentire tutto da me, davvero. Io non c'è un tipo speciale che lo sento. Cosa mi piace? Qualcosa che, come si dice, melodicamente. Sì. Se mi piace, lo ascolto. Allora, c'è anche jazz, rock, davvero, da tutte le parti. Ma qualche artista, facciamo i nomi dei colpevoli della tua formazione, sì, musicale. Anche mi, dai, piace un po' questo rock metal, possiamo dire, come il mio collega Oscar, possiamo... prendere, non so, prendere. Darci, diciamo, la mano. Dammi la mano. Dream Theater. Fantastici, sì. Allora mi piace questo tipo di musica, mi piace anche jazz, non so, Roy Haynes, se avete sentito. Sì. Davvero da tutto. Anche perché i Dream Theater sono famosissimi per i loro cambi repentini di ritmo, pur restando nell'ambiente hard rock, sì, heavy metal, quindi sì, sono davvero forti, sì. Daniel, te? Io dico tre nomi, perché io ho una lista infinita, insomma, sì, di cose. Ma sarà pubblicata all'interno del sì, tuo, sì, certamente, sito, la, sì, trovate, sì, sul sito apposito, un sito a parte. Sì. Dico tre nomi, diciamo, non so, diciamo i Pink Floyd, diciamo Jean-Michel Jarre. Ah, ecco, quello l'abbiamo citato, pochissima band che sono venute qua a suonare in 5 anni. L'Oxygen? L'Oxygen, sì. Anche, sì, anche sì, l'Oxygen. In, in quale versione? 1, 2, 3, 4? Le prime 6. E prendiamo la mia band preferita, una band italiana, e sono i Litfiba. Ah, che sono ritornati, sì, si sono ricostituiti, non sappiamo se per passione o per soldi, però si sono, seconda ipotesi, qualche maligno ha detto qualche maligno. Esattamente. Andiamo avanti, sì. Oscar, tocca a te adesso. Sì. Beh, ecco, a me piace anche abbastanza la musica, diversi tipi di musica come il rock, il blues, il metal, il progressive, e così. Il progressive, ad esempio, visto che è stato citato. I Dream Theater sono Dream i Theater, favori, sempre, sì, sempre loro. Quindi un nuovo progressive, sì, in questo caso. poi veniamo a al vocalist. Patrick, al vocalist. Voce e chitarra. Beh, facendo conto che a parte Diana sono l'unico nella band con i capelli lunghi, e avendo questo problema di troppa crescita dei capelli, ho dovuto assecondare la mia voglia di scuotere la testa e i capelli alla musica che ascolto. Quindi partiamo dall'hard rock dei Deep Purple, Led Zeppelin, eccetera, fino ad arrivare ai Metallica, agli Iron Maiden, band di questo tipo, e anche mettiamoci in mezzo anche un po' di grunge tipo Pearl Jam, Nirvana, eccetera. Certo, quindi parlando prima anche fuori dalla diretta proprio con Daniel, si citava un pezzo che andremo a ascoltare più tardi, è New Revolution, che ha proprio delle, come dire, delle impregnature verso la musica dei Deep Purple. Esatto, sì, in questo caso, soprattutto quindi... nella solo. Cosa ne pensi, hai citato in Metallica, del progetto Lou Reed Metallica? Ho ascoltato soltanto una canzone. Prova a sentirlo bene, un progetto molto interessante secondo me. Beh, comunque ecco, ci sono tanti che parlano male di questo. Sì. A parte i gusti, cioè, veramente stimo moltissimo Metallica anche per questo che hanno fatto. Secondo me è un grande passo, bene o male, bisognava avere proprio la forza di farlo, per non usare altre se parole. Senti la voce di Lou Reed in questo progetto, sembra Tom Waits, proprio andato giù, quasi proprio in fondo, assolutamente in fondo. Tocca a Diana adesso. Beh, io, grazie alla mia formazione musicale, non posso che essere grande fan dell'opera, della lirica. Però anch'io le mie basi, il mio lato oscuro si potrebbe dire, mi piace anche moltissimo il rock, per esempio, non so, andando indietro, non so, per esempio i The Who, poi il glam rock del David Bowie, fino ad arrivare all'alternative rock, come non so, i Blue Vertigo, per esempio, quei... Ma band croate, avete nominato tutte band italiane o band internazionali, quindi inglese, americane? Ecco, in Croazia c'è la musica, cioè nel senso c'è produzione artistica? Sì, c'è tantissima produzione artistica, però è un... diciamo così, un mercato abbastanza chiuso. È un tipo di musica che va avanti da alcuni anni. E non, diciamo che non accenna a cambiare, per dirla così. È un tipo di musica che noi personalmente non ascoltiamo. Sì. Con tutto il dovuto rispetto, tutti i gusti sono gusti. Non so, è un po' specifico, è un po' difficile da spiegare. È tipo quel pop melodico che si ascolta anche in Italia e che magari in questo caso prende anche la via del confine, diciamo, per citare alcuni nomi tipo Toto Cotugno piuttosto che altri personaggi di spicco della nostra musica, fanno successo più in Russia che non in Italia in questo caso. Sì, abbiamo anche casi così in Croazia che hanno più successo fuori dalla Croazia che nel proprio paese natale. Io ho letto di una band croata che fa punk rock, era molto famosa. Dimmi il nome. Adesso non me la ricordo, però l'ho letta da qualche parte. C'era una band croata che faceva punk rock un po' di tempo fa, non adesso. È andato oltre i confini sì, c'era croati. Non faceva proprio punk rock, faceva folk rock. Beh, insomma, diciamo una cosa un po' strana. Una cosa un po' strana, un po' specifica. Che andò oltre i confini della Croazia, è andata anche in Italia, anche in Germania, soprattutto in Germania era abbastanza, aveva un certo seguito. L'ho letto da qualche parte. I primi che mi vengono in mente così un po' più vecchi, diciamo così, che sono una signora band in Croazia e anche in tutta l'ex Jugoslavia, diciamo certo. Così, sono i Bielodugme. Quelli li ho sentiti nominare, sono qui. Quelli sono stati un grande gruppo. E ancora esistono ancora come band? No, non esistono ancora, solo che... fa parte del gruppo Bregovic che sentiamo quindi ha molto successo uscito qui in Italia esattamente, conosciuto in tutto il mondo. Esattamente con la sua band non riesco a pronunciarla, sì, per funerali e per non so come si chiama per matrimoni e funerali, credo, sì, per band per matrimoni e funerali, ecco, mi pare si chiama la sua band. molto allegro, come davvero no. Particolare sì, vabbè, allora facciamo le opportune corna, tocchiamo ferro, parliamo di argomenti belli per il matrimonio, sì, certo, per i matrimoni. Allora ci andiamo ad ascoltare un altro pezzo da CD in questo caso, e quindi ci ascoltiamo il Rafael, che poi torniamo a commentare insieme qui dagli studi di Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Siete sempre con Blu Radio Sera, ancora con Flavio Bilato e Maurizio Calzavara, ancora insieme a Game Carpe. Abbiamo ascoltato un pezzo dal loro CD che ha ben 4 tracce, però stiamo aspettando quello un po' più corposo di CD. Intanto lo stiamo ascoltando dal vivo, quello che poi proporranno i ragazzi all'interno del loro nuovo lavoro. Questo pezzo si intitola Raphael e per descriverlo ci vorrebbero 3-4 pagine, perché non si sa bene da che parte cominciare. Maurizio, aiutami tu. Sì, parlavo prima con Daniel, microfoni spenti. Una serie di cose, una serie di finestre, una serie di parti dal jazz, poi confluisci sul pop, poi fa l'intertime praticamente, lo swing, metti a repentaglio tutti gli ascoltatori, non sai da dove parti, ritmi latini, esattamente, cioè, c'è di tutto. C'è anche un super basso, per esempio, esatto, quel basso pulsante. Dove parte l'idea di questa cosa così bella e così sconvolgente, possiamo dire, musicalmente parlando, in senso positivo? Come ti ho detto prima, uno arriva con un'idea. Ma ti consentono di fare una cosa assieme gli altri? Se tu hai questa idea, la sviluppate assieme? Assolutamente, sviluppiamo tutte le idee. Abbiamo rispetto uguale per tutti. Democratici. Assolutamente, totali, 100%. Sì. E insomma, qua quando l'abbiamo fatta eravamo in 4, mi pare di ricordare. È venuta così, insomma. Si sente che ci sono 4 individui che non vanno l'un l'altro a genio musicalmente parlando per niente, si sente tutto qua dentro. Però siete riusciti a coordinare i 4 elementi pezzo, e questo è positivo. Almeno abbiamo provato, adesso poi diteci. Quando l'abbiamo sentito io e Flavio e Alberto, siamo stati positivamente introdotti nella vostra musica in questa maniera. Sì, perché come si diceva all'inizio, i DM Carpe non sono solamente rock, non sono solamente folk, non sono solamente jazz, non sono solamente DM Carpe, nel senso che si stanno affrontando diversi generi musicali, ma tutti assolutamente ben suonati. In questo caso c'era questo Raphael, che è l'unico pezzo che fate musicale? Strumentale. Sì, strumentale. Sì, è l'unico. Per dirla breve, descrive la figura del politico. C'è questo tema sul pianoforte che si ripete, ripete sempre le stesse cose. Sì. Fai 2+2. Ah, ho capito. C'è la stessa situazione in Croazia. Sì. No, perché noi conosciamo bene, insomma, abbiamo cercato di nasconderlo alcune volte, però poi alla fine non va. Perché... è uguale dappertutto. Ecco, ok, perfetto. Quindi anche la vita politica croata, diciamo, è molto simile. Quindi l'importante quando si parla di politica è quella, insomma. Hai detto bene, è simile. Sì, è molto simile. Perfetto. Allora, c'è spazio anche per un tributo a questo punto, un tributo che volete fare a chi? Sì, ci sembrava doveroso, siccome noi siamo qua a discutere anche quando abbiamo le prove di tanti generi musicali, però c'è una persona alla quale dobbiamo rendere un tributo, un omaggio. Che non è stato citato sinora. Sì, non è stato citato sinora. Abbiamo deciso di fare questo tributo siccome fra 2 giorni, il 24 di novembre, è il 20° anniversario della sua morte, e stiamo parlando di Freddie Mercury. Bene, allora da quella lunga lista di canzoni cantate da Freddie Mercury, sia con Queen sia da solo, cosa avete scelto? Abbiamo scelto The Show Must Go On. Bene, allora da Blu Radio Veneto, assieme a DM Carpe, questa The Show Must Go On. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another a mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hard line, does anybody want to take it anymore? The show must go on. My heart is breaking, my makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever happens, I leave it all to chance. Another heartache, another failed romance. On and on. Does anybody know what we are living for? I guess I'm learning, I must be warm now. I'll soon be turning round the corner now. Outside the dawn is breaking, but inside in the dark I'm making to be free. Maybe breaking, but my smile still stays on. Still stays on. My soul is painted like the wings of butterflies. Fairy tales of yesterday will grow but never die. I can fly, I'm my friend. Show must go on. Show must go on. I'll face it with a grin. I'll never give it in. I'll overkill. I have to find a will to carry on. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Naturalmente non poteva essere una semplice cover, verso la fine abbiamo capito che le sonorità si stavano quasi mutando in favore di Dean Karpe e poi si è ripresi quella che invece era la melodia di The Show Must Go On. Dean Karpe, appunto, nostri ospiti in questa serata. Loro sono un gruppo, arrivano direttamente da Parenzo e sono venuti sin qui per proporci la loro musica. Allora, nel vostro prossimo lavoro, quello che già stiamo ascoltando praticamente dal vivo, anzi qualcuno farà qualche copia pirata delle canzoni, è una provocazione di fronte... Ragazzi, non rubate! Mi raccomando, assolutamente. Qual è la lingua scelta? In tutte le canzoni ci sarà l'inglese oppure pensate di inserire anche qualcosa in croato o in italiano? No, in questo primo album credo sarà tutto in inglese, interamente in inglese. Come mai questa necessità di cantare in inglese, questo desiderio di cantare in inglese? Perché vogliamo, diciamo così, arrivare a un pubblico più vasto, diciamo così. Se cantiamo solo in croato lo capiscono solo i croati. Sì. Se cantiamo in italiano è ridotto, ridotto per dire, non è che un paese piccolino, ma va bene. Non siamo grandissimi, però. Ma in confronto alla Croazia. Sì, beh. Così abbiamo deciso di farle in inglese, perché speriamo di andare anche... All'estero sono praticamente un po' in giro, praticamente. Sì, sì. Cioè l'idea è quella là. Sì. Vostre date qui in Italia, prossime venture, oltre a quelle che abbiamo citato prima, ovvero siete andati a Firenze, siete passati per Trieste? Sì, per quest'anno non abbiamo, fino alla fine dell'anno non abbiamo piani concreti, l'anno prossimo credo che faremo qualche salto qui in Italia, adesso non so dire ancora nessuna data esatta. Ok, ma in Croazia avete già delle date per caso? Stiamo preparando delle date, sì. Il disco conterrà quanti pezzi? Quattro, quindi abbiamo sentito i quattro delle EP, sarà più ampio, c'è una decina di pezzi probabilmente. Ad oggi ce ne saranno 12. A 12, bene. 12, diamo una piccola... Anteprima, diciamo così, sarà una rock opera. Ah, vedi, interessante, un rock opera. Per iniziare in modo... semplice. Semplice. Assolutamente semplice. Una rock opera, mica semplice. Ed è previsto, oltre al CD, è previsto anche l'inserimento di un DVD nella vostra opera? Molto probabile, perché c'è una grande possibilità che la faremo da prima in live, diciamo così. Ah, ho capito. Andiamo prima a fare il live in più posti, e appena dopo andremo in studio a registrare. È un bel coraggio, francamente, fare una rock opera. Grazie. Non è mica una cosa semplice, assolutamente. Però ci proveremo e poi chiaramente vedrà. Poi la porterete qua, chiaramente. Certamente. Ok. Se viene bene, se no... Ma anche se non viene bene, dobbiamo portarla. Ma se no perderemo il numero. Ma perché non dovrebbe venire bene? Tu hai questi dubbi dopo aver sentito i ragazzi? No, io no, suono, assolutamente. Sono loro che hanno i dubbi. Io no, assolutamente. Devo fare l'umila. hanno i dubbi, giustamente, da artisti, e in questo caso però noi dobbiamo appunto controbattere in positivo in questo caso. Allora, spazio ancora per... un pezzo dal vivo, visto che ormai il tempo stringe. Si parlava prima di A New Revolution, che è un pezzo che da disco viene fuori molto, molto potente, molto hard rock. In questo caso come viene proposta? con quello che abbiamo. Poi dici tu quando la senti. Certo, allora la sentiamo per due chitarre con la fisarmonica, il cajon. E quindi questa è New Revolution. Yes. Sloughing alone in the cold wind of time, watching those shadows passing by, searching for someone who can spread my wings and take me to a walk in the sky. Set ears out in behind the wall, standing in front of some stranger's looks, here's the flame ready to burn out. Now I am sitting down here, pretending to believe what that voice tells me to do. Angels are screaming my name, calling me to join the game. A chain of bliss and joy without you. in my mind. A new revolution here to come. Now I feel lusty and free. Don't share your tears with me, but make me laugh till I cry. So look, but open your eyes. You're gonna pay for your disguise. I know your words were all a big lie. All you people did not believe all what I can achieve. This revolution will be your blame. Your time has gone away. It's my time to shine this day. Those angels are still calling my name. Don't look, but open your eyes. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E questa è New Revolution, proposta dal vivo con DM Carpe. Un invito anche ad ascoltarla nella versione in studio, che sarà anche proposta nell'ultimo lavoro, se abbiamo capito. Yes. Ecco, benissimo. E quindi la sentirete in una versione un po' più sostenuta. Ma giusto, ecco, un pelo. Giusto un pelino più sostenuta. E tra l'altra cosa ci ha chiamato adesso Ian Gillan, che fa complimenti ai ragazzi, dice: ma perché non ci abbiamo pensato prima noi con questa melodia, che avremmo potuto fare ancora più soldi. È un ragazzo di Padova? Sì, esatto, sì, sì. Un ragazzo che frequenta spesso la zona. Sostenuta anche qui, in questa versione, decisamente cioè non c'erano le percussioni, ma c'era qui il nostro amico che suonava molto bene, molto potente, e poi c'era la tua fisarmonica che dava un tocco decisamente forte, non orientale stavolta, però. No, stavolta non ho fatto l'orientale, assolutamente. Stavolta ho fatto il basso. Esatto, hai fatto il basso. Ok. Allora, noi siamo quasi arrivati alla fine della trasmissione, però c'è tempo per ascoltare un'altra canzone, sempre di quelle tracce, in questo caso conosciute, perché naturalmente è da ricordare ai nostri ascoltatori che DM Carpe si sono presentati qua. Noi pensavamo si facesse dei brani conosciuti, in realtà si è spaziato in tutte quelle che sono le sonorità a noi sconosciute dei DM Carpe, e ci ha fatto comunque davvero piacere. Allora, direi di sistemare anche il pezzo, che se non sbaglio è la traccia numero 3 del disco, che vogliamo un attimino commentare cosa succede all'interno di questo pezzo. Succede che sentirete finalmente Diana nel suo soprano. Finalmente. No, adesso è da sola, bello, non siamo, sì, noi a rompere le scatole. Patrick, io no, da back vocal, ma la lasciamo un po' cantare da sola. È la canzone che probabilmente chiuderà la rock opera. Mm-hmm. Diamo ancora un po' di assaggini. Parla semplicemente di, insomma, il testo è: se vuoi vedere cambiare il mondo, inizia a cambiarlo da te stesso. Bene, allora il titolo è? Oblivion. Eccolo qua, allora ce l'ascoltiamo e poi torniamo in diretta da Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. You're sad. Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E io mi prenoto una copia autografata di questo disco che uscirà, si spera, nel più breve tempo possibile. E ringrazio anche i Dien Karpe per la loro musica. Questo pezzo che abbiamo ascoltato da CD si intitola Oblivion e si parla già di una rock opera già impostata e che uscirà nel breve. E anche questo Oblivion ne farà parte. Allora, atmosfere gilmuriane, diciamo così, soprattutto nella parte riservata alla chitarra. E poi alla fine un Dream Theater spaccato, alla fine, chiediamolo, assolutamente. Chiediamolo ad Oscar. Quasi. Alla fine sì, è un Dream Theater. Magnifico, epico. Esattamente, alla fine c'erano proprio loro, assolutamente. Quindi allora noi il tempo è finito, purtroppo è terminato, siamo stati in piacevole compagnia con i Dien Karpe, abbiamo chiesto al collega dell'ora successiva di Hard Rock Heavy Metal, Renato Ferro, di portare ancora pazienza perché avete fatto tanta strada, quindi ancora qualche minuto della vostra musica viene concesso. Grazie Renato. Grazie Renato. Ecco, anche perché poi sentirete la musica tornando a casa, che genere di musica propone il nostro collega. E allora, per fare ancora un po' di pubblicità, Dien Karpe, c'è un sito internet disponibilissimo nel breve, mi sembra di aver capito, che ha l'indirizzo www.dienkarpe.com. E poi naturalmente sì, lì ci sono i link per Facebook e per tutte le altre pagine. Se avete ancora qualche dubbio sul nome, Dien Karpe, che è esattamente il contrario di quello che si diceva prima, Karpe Diem. Yeah. E quindi invece di cogli l'attimo, l'attimo cogli. Ma sì, non lo cantiamo proprio così, ma va bene. In questo caso, così un'ultima curiosità, in croato Dien Karpe come si potrebbe tradurre? Dien Karpe, Danis Koristi. Danis Koristi. Bene. Ok, allora salutiamo Oscar, salutiamo Diana, Davor, Daniel, Patrick, ringraziamo per essere stati con noi in questa serata. Grazie per a voi e grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie. E per averci proposto questa musica. È obbligatorio un nuovo passaggio da queste parti non appena avrete sfornato questa rock opera di cui abbiamo parlato, di cui non sappiamo ancora il titolo, però insomma ci teniamo questa, lo faremo sapere. Questa bene, curiosità. Bene, bene. Benissimo, allora ancora grazie, noi ci lasciamo con un ultimo pezzo che abbiamo già sentito prima nella versione acustica, ma adesso lo ascoltiamo da disco. È quel famoso Tell Me, che ricordiamo è presente anche su internet, anche su YouTube, mi certamente sembra sia presente, sì, con basta scrivere Dien Karpe Tell Me e si trova. Benissimo, con un filmatino davvero non male, registrato. Grazie. Secondo tutti i crismi, una perfezione, insomma, come filmatino. Lo faremo sapere agli autori. Ecco, benissimo. E allora, ancora una volta, buon rientro in quel di Parenzo. Ci vedremo quest'estate. Ecco, no, nel senso che però da quelle parti io. Allora, ultimo pezzo, quindi questo Tell Me da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. Un solito grande caloroso ciao e grazie ancora ragazzi di essere stati con noi. Ciao ciao ciao, ciao, ciao, ciao, grazie. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. my mind, I don't know about. Is there a thought I should get freedom? I know there is a dream in which we hide all our memories of love. Tell me what I should think, what I should do. Tell me how to see through, why the sky is so joy or stay away. All I want to do is about a lonely boy. A candle which was burning too fast. He never knew